Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21.30, ora sono le 20, insomma poco più, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Eccoci qua, scusate, ho abbassato il cursore sbagliato e vabbè, questa insomma è la diretta di questo programma che è Zardins Magnetics, dopo la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines e andremo avanti fino alle 21.30, ma ora andiamo all'ascolto di questa band inglese, storica band punk inglese che si è formata proprio alla fine degli anni 70. Loro sono i Subhumans e da un doppio album live è uscito nel 2004, che si chiama Live in a Dive, ed era edito grazie alla Fat Wreck Chords. E comunque è uscito nel 2004, quando la band fece un enorme tour internazionale, e dopo appunto dopo alcuni anni di pausa si era riformata con, se non erro, in formazione originale. Va bene, loro sono comunque i Subhumans. Ed un tratto, Roberto Alano scorse un castello fortificato, il primo della sua vita. Sull'altra riva, in quel polverio di sole che rendeva tutto lontano, altero e teatrale, un torrione, alcune merlature e torricelle, forse anche qualche piombatoio, se soltanto avesse saputo che cosa fossero. Quali cavalieri e cavalli abitavano così in piena Parigi? «Facciamo presto, Roberto Alano», disse l'accompagnatore con voce stanca. Dalla mattina alle 4, dopo la sveglia, la strada deserta, la stazione e lo scompartimento dall'aria pesante, non sapeva ripetere che questo. «Facciamo presto, Roberto Alano». «Andiamo dunque», riprese l'accompagnatore. «Cosa c'è ancora?» Si volse e vide il ragazzo immobile. Aveva le sopracciglia aggrottate che si congiungevano come due onde di prora, gli occhi neri e meravigliati, le labbra semiaperte, come stesse per parlare, anzi, come se avesse pianto. Questo ragazzo di 11 anni, che non batteva mai le palpebre, che in treno, mani in tasca, bavero rialzato, non aveva dormito un minuto né fatto una domanda, questo piccolo straniero lo intimidiva. «Là!» disse Roberto Alano con la sua voce arrocchita del mattino e alzò il braccio. Soltanto due dita uscivano dalla manica troppo lunga. «Cos'è?» «Il palazzo di giustizia, vieni!» «Che cosa c'è dentro?» «Ladri, assassini, giudici, su, facciamo presto!» Roberto Alano immaginò subito sotterranei di tortura, patiboli a ciascun piano, carnefici in cappa rossa, le cui mani... Il fischio di un rimorchiatore troncò tutto. Il ragazzo corse fin sulla metà del ponte per essere a piombo del rimorchiatore quando questo fosse passato sotto l'arco. Vide un altro ragazzo della sua età allungato sulla parte posteriore d'un battello, fra vasi di fiori e una gabbia di conigli. I loro sguardi si incontrarono senza simpatia. «E se me ne filassi via anch'io?» pensò Roberto Alano, serrando i pugni nelle maniche fuori di misura. «Guarda!» disse l'accompagnatore raggiungendolo. «Ecco un panorama celebre, qui il Palazzo di Giustizia, a sinistra il Tribunale di Commercio e la Prefettura di Polizia e dietro l'ospedale, un vecchissimo ospedale. Tribunale, Polizia, Ospedale, con tre parole da adulto, egli aveva edificato un mondo di pietra nel quale il piccolo respirava male e si sentiva lo stomaco vuoto. Oh, il battello, il ragazzo disteso, già tanto lontano». Roberto Alano levò la testa ricciuta e fissò quell'uomo che parlava con un sorriso buono. Aveva il cappello, gli occhiali, l'impermeabile, era un uomo tutto d'un pezzo, un monumento fra gli altri. Come mai aveva ancora la mano calda? «E il mercato dei fiori, anch'esso abbastanza pittoresco», concluse l'uomo. Ma il ragazzo non l'ascoltava più. Dal fondo del mercato dei fiori un cane correva verso di loro. Roberto Alano sentì il cuore battere forte prima di capire il perché. Con la testa e il collo tesi e lo sguardo fisso, quel cane trottava agilmente. Procedeva dritto davanti a sé, con la cieca ostinazione di una nave. Tuttavia, in mezzo a quel crocicchio così frequentato, così rumoroso, il passaggio insolito di quella bestia solitaria, silenziosa, frettolosa, sembrava sorprendere soltanto Roberto Alano. L'animale lo sfiorò senza rallentare. Il suo mondo si riduceva a un filo di odore che gli sfuggiva. Prese il galoppo, fauci aperte, lingua penzoloni. Poi esitò un istante, ma senza fermarsi, come un veliero che viri di bordo. Attraversò la strada obliquamente, senza badare ai veicoli, e uno degli agenti che sorvegliava l'entrata del Palazzo di Giustizia cominciò a osservarlo. Roberto Alano se ne accorse, aggrottò le sopracciglia e serrò le labbra. In quel momento sentì assai distintamente battere il cuore. Come mai l'uomo con l'impermeabile non lo sentiva? Il cane continuava la sua strada dritta sull'altro marciapiede con una falsa allegria, come riconoscesse il cammino. Fece così il giro della piazza e si ritrovò allo stesso posto. Allora si fermò, ansante, e volse la testa da una parte, poi dall'altra, con lo stesso gesto dei moribondi. E Roberto Alano, che non gli aveva tolto gli occhi di dosso, s'accorse che non portava il collare. Per qualche istante il ragazzo si era dimenticato di respirare, poi tirò un lungo, rauco sospiro che lo fece rabbrividire. «Cosa c'è?» chiese l'accompagnatore che raccontava, nel deserto della solitudine, la fondazione dell'ospedale. «Niente», rispose il ragazzo con voce sorda. «E allora, dopo San Luigi?» Desiderava stare in pace, e i ragazzi stanno in pace quando parlano i grandi. Aveva compreso che quello era un cane sperduto e che anche lui se ne rendeva conto solo allora. Anche lui voleva essere lasciato in pace. Ebbene, dopo San Luigi... La bestia era ripartita in direzione opposta, un grosso cane rossiccio, maculato di bianco, molto magro. La sua pelliccia si muoveva attorno al corpo, veste sontuosa di vecchio re condannato. Una bella macchina da corsa. «Andiamo!» sperò il ragazzo, «saprà trottare il tempo che occorrerà». Ma no, il cane si arrestava ancora e Roberto Alano lo vide distintamente tremare sulle zampe e poi accucciarsi un po'. Tremava? Oppure era il vento che correva attraverso il pelo? A un tratto partì, attraversò la stessa via, quasi allo stesso punto. Una vettura per poco non lo schiacciò. Roberto Alano levò il braccio, come per impedirlo, da lontano. Il cane risalì a schiena curva, con un movimento d'onda, mostrando uno sguardo umile e impaurito. La gente lo indicò col dito e fece segno ai suoi due colleghi. «Dite», chiese bruscamente Roberto Alano, «cosa accade dei cani perduti?» «Ma questo che c'entra?» rispose l'altro, accomodandosi gli occhiali. Stava parlando della Sainte-Chapelle. «Che cosa accade di loro?» «La polizia cattura i cani randagi per condurli al canile pubblico. E là vengono raccolti», la sua voce tremava di speranza. «Vengono sacrificati». «Ah, bene, ma a chi?» riprese dopo un momento. «Come dici?» «Vengono sacrificati a chi?» Si era lasciato prendere per un momento dall'insidia delle grandi parole. «Sacrificare vuol dire uccidere», disse l'uomo, e sembrava felice di appartenere al numero di quelli che dicono «sacrificare» invece di «uccidere». «Li uccidono!» gridò quasi Roberto Alano. «Ma cosa hanno fatto?» «È per l'ordine», rispose l'uomo, «i cani randagi sono di disturbo all'ordine pubblico». Doveva essere il parere anche degli agenti. Roberto Alano li vide raggrupparsi e spiegare la mantellina come uccelli notturni. Con terribile bonarietà si diressero verso il cane che con i fianchi tremanti s'era fermato non lontano da loro. Li guardava avvicinarsi gli uomini in blu, li fiutava tendendo impercettibilmente il collo verso di loro. La sua coda batté. Roberto Alano si sentì sprofondare dalla vergogna. Ciò che seguì richiese meno tempo ad essere fatto che detto. L'uomo in impermeabile vide il ragazzo slanciarsi e rimase stupefatto con la bocca semiaperta sulle parole «cuori di pietra», slanciarsi e attraversare la strada alla cieca, come l'altro. Mentre correva il ragazzo si frugava nella tasca sinistra. La boccettina di profumo, degli aggeggi, una castagna, non è questo, poi in quella di destra. Vi trovò un lungo spago che svolse, gli agenti avevano terminata la loro manovra e accerchiata la bestia. Roberto Alano penetrò nel cerchio e... «Sta a vedere che mi morde», tese la mano verso l'animale. «Bene, o bene, cosa fai là?» chiese in tono gioviale, tentando di annodare la corda intorno a quel collo tanto magro, ma le sue mani tremavano troppo. «È fuggito», spiegò. «Ah sì?» Era un bel assalto di ipocrisia, gli agenti fingevano di credere che quel cane appartenesse veramente a quel ragazzo dalle scarpe troppo pesanti, dai capelli e dai vestiti troppo lunghi, un ragazzo da accalappiare anche lui. L'uomo in impermeabile sopravvenne a guastar tutto, proprio con le stesse parole. «Bene, bene, cosa fai là?» Il cane comprese, più in fretta degli altri, con la stessa andatura di prima davanti al veicolo, si allontanò dagli uomini in blu. Fra le due prede, essi scelsero la più indifesa, lasciando indietro Roberto Alano. Corsero dietro al cane, con la mantellina in mano. «No, no!» gridò Roberto Alano, affondando le unghie nel panno della manica. «Lo prendono! Bisogna, non so, bisogna che... Oh, guardate!» Nel momento in cui gli agenti stavano per ghermirlo, e già la bestia immobile con le orecchie penzoloni e la coda bassa tremava, un altro cane lo raggiunse. Veniva dalla riva dell'orologio, un cane lupo, senza collare, ma sperdutosi da poco, con un giorno o due di meno di vagabondaggio nelle zampe. Mostrò i denti, senza nemmeno brontolare, senza rallentare il suo trotto. Gli uomini si fecero da parte e le due bestie se ne partirono insieme, con lo stesso passo, verso i Ques. «Sono salvi», pensò Roberto Alano. «Salvi, ne sono sicuro, perché l'altro è arrivato, perché sono in due». Bene, intanto stiamo ascoltando ancora i Subhumans in sottofondo, e anzi adesso non potevamo tagliare all'inizio di questo brano, anche se lo abbiamo un po' sfumato, brano storico di questa band, appunto dei Subhumans, e comunque ora passiamo invece all'ascolto di questa band italiana. Ah sì, tra l'altro scusate, non ho detto che dei Subhumans, a parte essere band inglese, che i brani che abbiamo ascoltato fanno parte del doppio live, un doppio LP live uscito grazie alla Fat Wreck Chords. E ora, comunque di un tour eseguito nel 2004, quando la band si era riformata dopo quasi un decennio e anche oltre di silenzio. E come ho detto, andiamo ora all'ascolto di questa band italiana della zona di Alessandria. Loro sono i Drunkards e questo è il loro album, CD album, uscito nel 2007, che si chiama Sentenza di Morte. Io, il furore di Dio, mi sposerò con mia figlia e fonderò con lei la dinastia più pura che abbia mai regnato sulla terra. Noi due insieme regneremo su tutto questo continente. We'll be right back. saluto anche da parte mia. E allora, la lettura che ho fatto come prima lettura è il prologo di un libro che si intitola Cani perduti senza collare di Gilbert Sesbron, un libro del 54 che parla appunto di questi ragazzi sperduti, ragazzi che finiscono in riformatorio. E così l'ho pensato come lettura iniziale, lettura appunto per iniziare la trasmissione, proprio perché mi sembrava un bel così un bel modo, diciamo, di parlare della fuga dall'oppressione, del mostrare i denti, del non arrendersi, del non lasciarsi da soli, non lasciare nessuno da solo, e della solidarietà, e insomma di questi tempi sono tutte cose importanti da tenere a mente e anche da praticare. E continuiamo parlando invece di una lettera aperta su Notav, Green Pass e prospettive comuni, una lettera che appunto le compagne e compagni della Val di Susa stanno facendo circolare, diciamo in qualche maniera per proporre un rilancio delle lotte. E poi vabbè, loro chiedono anche delle sottoscrizioni, insomma, se si vuole si può sottoscrivere questa lettera, quindi delle sottoscrizioni formali, diciamo, poi dopo magari vi do l'indirizzo, però intanto andiamo a sentire che cosa ci dicono. Lettera aperta su Notav, Green Pass e prospettive comuni. Siamo persone che da anni sono parte del movimento Notav, chi più attivamente, chi meno, tutte con la medesima consapevolezza di appartenere ad una comunità che nel tempo ha individuato nella costruzione dell'opera danni ambientali e alla salute degli abitanti, e non solo. Abbiamo anche appreso, crescendo dentro questo percorso, che non si tratta di un problema solo locale. Abbiamo imparato a comprendere le dinamiche di uno Stato che, col bastone e la carota, impone scelte che si riscontrano sia qui che altrove e non esclusivamente rispetto allo sfruttamento dei territori. In ogni caso, privilegiando lucro e profitti, disinteressandosi alle necessità reali del tessuto sociale. Siamo persone che hanno individuato nella gestione della salute pubblica un eclatante esempio di necessità sottratta e riteniamo l'assenza di una presa di posizione del movimento rispetto alla gestione pandemica un grave errore. Con questo testo ci rivolgiamo a chi riconosce la gestione della pandemia come momento di cesura storica che acuisce la crisi economica, dilania le relazioni sociali e il dibattito politico. Numerose parti della nostra società hanno subito sconvolgimenti dovuti a paure e frustrazioni che hanno creato acredini, divisioni e fratture in ambiti familiari, amicali, associativi, lavorativi, sindacali e politici. Constatiamo con amarezza che anche nel movimento Notav, così come in gran parte dei movimenti sociali in Italia, non c'è stata una riflessione necessaria per chiarire e confrontarsi in merito alle imposizioni governative. La situazione pandemica ha suscitato solo dei tabù anziché generare dialogo. Giorno dopo giorno abbiamo assistito sempre più passivamente al perpetrarsi di ingiustizie, discriminazioni e nuove forme di oppressione, senza strumenti di difesa collettivi. Imposizioni governative spacciate come misure sanitarie hanno esasperato la crisi economica, incrementato le disuguaglianze sociali, mettendo le basi per una nuova normalità fatta di obblighi e ricatti sul lavoro e sui nostri corpi, più spietati di prima. Siamo certe che su questioni delicate, che siano la salute e le vaccinazioni in particolare, ci siano punti di vista diversi e riteniamo che debbano essere reciprocamente rispettati. Siamo consapevoli che saper coltivare le diversità come una ricchezza rappresenti un punto di forza. Per queste ragioni sentiamo di riconoscere nelle strategie messe in atto dal governo un attacco alla libertà di scelta. Dopo 2 anni di pandemia ci ritroviamo con una sanità sempre più smantellata e ancor meno adeguata al compito di tutelare la salute. Nel contempo le imprese multinazionali farmaceutiche si sono aggiudicate ruoli sempre più centrali nelle decisioni prese dal Ministero della Sanità e di conseguenza investimenti multimiliardari. Allo stesso momento abbiamo assistito ad un processo di deresponsabilizzazione collettiva in cui la logica dell'emergenza sanitaria ha fatto sì che scelte quotidiane siano state demandate al controllo poliziesco e al Green Pass, anziché all'approfondimento e allo scambio delle conoscenze e all'incontro tra i volti. Il tutto ha creato serie difficoltà esistenziali a molte persone, tra noi e vicine a noi, non solo Notav e non solo Valsusine. Tante sono state sospese dal lavoro per mesi interi senza stipendio, altre hanno sentito di fare violenza su di sé, obbligate a subire la somministrazione di un farmaco sperimentale contro la loro volontà. Altre ancora inizialmente hanno aderito alla campagna antivirale spontaneamente e con spirito solidaristico, per rendersi poi conto di quanto il Green Pass fosse volto in realtà ad alimentare la separazione tra buoni e cattivi. Tutto ciò senza la benché minima forma di vicinanza e supporto da parte di quella che consideravano la loro comunità di riferimento, che invece ha sempre saputo solidarizzare con le più svariate lotte territoriali. No dal Molin, no TAP, no TRIV, no MUOS, no al ponte, no terzo valico, no nucleare, eccetera. Come con i movimenti per l'emancipazione dei popoli dalle guerre e dalle oppressioni, dal Kurdistan alla Palestina, all'America Latina. Le questioni legate alla salute possono anche essere considerate specifiche o personali. Non possiamo però ignorare, più in generale, quanto provvedimenti governativi come il dispositivo digitale del Green Pass stiano proiettando la società umana e il prossimo futuro verso orizzonti di controllo e disciplinamento sempre più pervasivi, come se il presente non fosse già abbastanza oppressivo. Che futuro possiamo immaginare per le nuove generazioni e per le lotte di oggi e di domani in una situazione del genere? Non c'è forse il rischio di una ulteriore perdita di autonomia e libertà per le persone o per le istanze sociali e politiche, compresa la stessa lotta Notav? Eppure la Val di Susa conosce fin troppo bene che vuol dire questa perdita di autodeterminazione a causa e attraverso l'aumento della militarizzazione. Quando fu istituita col pretesto di contenere la pandemia, la zona rossa esisteva già da anni attorno al cantiere di Chiomonte per contenere i sussulti di ribellione di chi si opponeva alla grande opera. Non rileviamo nel TAV, nell'istituzione del Green Pass e nelle pratiche di controllo sociale una comune matrice impositiva? Il futuro che ci viene propinato è sempre più assimilabile ad un mondo governato da tecnologie e algoritmi, ibridi tecnologici, dove saranno ammesse solo le teorie scientifiche funzionali ai disegni del potere patriarcale capitalistico, dove le libertà e i benefici saranno solo quelli concessi tramite il disciplinamento imposto manu militari e dalla propaganda mediatica. Scenari che prospettano l'avvicinamento al modello del sistema di credito sociale applicato in Cina, caratterizzato dall'eliminazione di qualsiasi forma di dissidenza, opposizione e obiezione. Tutto ciò conduce all'appiattimento delle condotte sociali su un modello di normalità preconfezionata e sterile, in un mondo sempre più urbanizzato e fondato su un regime sanitario digitalizzato. Crediamo che l'adozione del lascia passare verde, per il momento legato alla vaccinazione anti-Covid, sia solo l'antipasto di un progetto più ampio che verrà alla prima occasione riproposto, affinato ed affiancato alla progressiva digitalizzazione dell'identità personale, con l'eliminazione del denaro contante e tutto ciò che ne consegue. Abbiamo capito negli anni che progetti come il TAV sono parte integrante di un sistema capitalista ed estrattivista basato sullo sfruttamento degli esseri viventi e sull'impoverimento delle risorse naturali, un sistema che produce guerra per la guerra, di cui il Green Pass non è altro che l'ennesima espressione. Anziché tutelare i beni comuni, la prospettiva è di distruzione delle specie viventi e di deterioramento delle terre, delle acque e delle atmosfere. Ci teniamo a ribadire la nostra scelta di collocarci insieme a chi subisce le imposizioni violente dei potenti, di chi sta prendendo coscienza su temi legati alla salute del pianeta, della natura sopravvissuta e delle persone che lo abitano. Vogliamo continuare il nostro rifiuto al TAV e alle nocività che ci vengono propinate e vorremmo pure continuare a immaginare un mondo diverso, cominciando a praticarlo ogni giorno nelle piccole cose, coltivando relazioni e saperi che facciano crescere le nostre coscienze di persone liberate. Crediamo di poterlo fare con chi condivide lo spirito di fondo espresso in queste righe. Allora, questa era appunto la lettera aperta dalla Val di Susa su NoTav, Green Pass e prospettive comuni. E ci dicono i compagni e le compagne che hanno scritto questa lettera. L'intento è quello di far uscire una voce, frutto di cammino collettivo in Val Susa, durante questo ultimo periodo di strategie governative di emergenza pandemica, che sia spunto di riflessione e stimolo per ricucire e rilanciare percorsi di lotta e mobilitazione. Se andate su letteradallavalsusa.it, lì ci sono ulteriori informazioni, nonché informazioni anche sulle prossime iniziative in Val di Susa, e insomma potete approfondire. Lasciamo in sottofondo, ma solamente per presentare questa band. Loro sono della zona di Como e si chiamano Zona d'Ombra, e questo è il loro mini CD che si intitola Guerra all'Apatia. Mentre più che altro volevo anche presentare e dire la band che abbiamo ascoltato prima in sottofondo durante l'intervento, un po' stile Punk Noise, una band di Roma che si chiamano HRA666, comunque HRA è l'acronimo di Hiroshima Rocks Around, ed è una band che non so se esiste ancora, comunque è zona Roma. Comunque rimaniamo con i Zona d'Ombra. Bene, teniamo in sottofondo questa band, secondo me molto brava, sono in Zona d'Ombra dell'area di Como, e questo era il loro CD che si chiama ancora comunque Guerra all'Apatia. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band diciamo tedesca, ma in realtà è una band che è formata da componenti del Brasile, del Cile e comunque anche della Germania, della zona di Hamburgo. Loro sono i Peace Charge e questo è il loro album Anatomy of Action, che è il loro ultimo album uscito nel 2021. Was natürlich letztlich nichts anderes sagen will, als dass die Erschaffung des Menschen als eines jemand mit der Erschaffung der Freiheit zusammenfällt. We'll be right back. caso particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria. E rimaniamo ancora all'ascolto di questa band, i Peace Charge, che sono della zona di Amburgo in Germania, ma in realtà comunque i componenti provengono dal Brasile e anche dal Cile. Ecco, ritorniamo allora alle parole. Abbiamo pensato di proporvi la lettura non integrale, perché veramente è un articolo molto lungo, molto approfondito, ma insomma, dei pezzi almeno, di questo articolo che si intitola Nessuna guerra, ma guerra di classe contro il nazionalismo di Stato e la guerra interimperialista in Ucraina. Scritto da compagni anarchici di Oakland, San Francisco, New York e Pittsburgh. L'incipit è questo: il ruolo degli anarchici nella presente tragedia è di continuare a proclamare che non c'è che una guerra di liberazione, quella che in tutti i paesi è condotta dagli oppressi contro gli oppressori, dagli sfruttati contro gli sfruttatori. Queste sono parole del Manifesto Internazionale Anarchico contro la guerra del febbraio 1915. E ancora, l'imperialismo e il suo servo, il militarismo, calcoleranno i loro profitti da ogni vittoria e da ogni sconfitta in questa guerra. Dal punto di vista di classe, per il proletariato europeo nel suo insieme, la vittoria e la sconfitta di uno qualsiasi dei campi di guerra sono ugualmente disastrose. E queste erano invece parole di Rosa Luxemburg, De Junius Pamphlet del 1915. Allora scrivono i compagni americani, scritto nel 1915, quando la rivoluzionaria ebrea di origine polacca fu imprigionata per la sua agitazione contro la guerra, il Junius Pamphlet, o La crisi della socialdemocrazia di Rosa Luxemburg, è una delle più potenti accuse mai pubblicate alla Prima Guerra Mondiale e alla società borghese che l'ha prodotta. A oltre 100 anni dal suo assassinio da parte dei Freikorps tedeschi nel 1919, le parole contro la guerra sembrano appropriate tutt'oggi. Questo è inquietante. Rosa Luxemburg condanna i partiti socialisti d'Europa per aver tradito la posizione della prima e della seconda internazionale contro la guerra imperialista, avendo supportato i governi dei rispettivi paesi nella Grande Guerra. Nel caso del suo stesso partito, il Partito Socialdemocratico della Germania, Luxemburg rifiuta l'affermazione che il paese sia impegnato in una guerra per la libertà contro il dispotismo russo, mostrando invece come si tratti di una guerra imperialista da parte della Germania, tanto quanto da parte delle potenze alleate. All'epoca ci fu una scissione simile tra gli anarchici. L'anarchico russo Kropotkin sostenne l'adesione alla guerra dalla parte delle potenze alleate e fu giustamente denunciato da molti anarchici, inclusa Emma Goldman ed Enrico Malatesta. La capitolazione di molti socialisti e anarchici al nazionalismo statale durante la Prima Guerra Mondiale e il conseguente danno alla lotta di classe globale rimane uno dei più tragici racconti ammonitori della storia moderna. La guerra ha diviso radicali di sinistra, socialisti e anarchici di tutti i tipi. Non una tendenza era unita contro la guerra, anzi, tutti gli oppositori dell'imperialismo e del nazionalismo statale erano costretti ad attaccare gli elementi a favore della guerra nei loro stessi ranghi. Con la minaccia di un'altra guerra mondiale che incombe, purtroppo, ci troviamo costretti a fare altrettanto con molti anarchici oggi. Scriviamo per affrontare una tendenza che abbiamo osservato tra alcuni anarchici nordamericani e alcune pubblicazioni, un discorso sempre più a favore della guerra, allineato con gli USA e la NATO e minimizzante riguardo ai fascisti. Essendo stati influenzati da alcuni di questi anarchici e avendo contribuito ad alcuni di questi progetti, siamo stati zitti finora, credendo nelle loro buone intenzioni. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, abbiamo constatato l'incompatibilità di queste posizioni prese sistematicamente con l'effettiva opposizione all'intervento degli Stati Uniti nelle guerre straniere, sotto forma di sanzioni, no-fly zone o aiuti militari, ed è stato inquietante riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina. In particolare, siamo profondamente infastiditi dal supporto anarchico al cosiddetto Comitato di Resistenza, dato che è, come molte milizie di estrema destra in Ucraina, parte di una più ampia iniziativa statale diretta a rafforzare le forze armate dell'Ucraina. Tacere significherebbe agire verso la nostra stessa sconfitta, mentre gli influenti anarchici nordamericani assumono posizioni che sono in effetti identiche a quelle ripetute fino alla nausea sui canali di notizie liberali 24 ore su 24 e dai falchi di guerra a Washington. E siamo sempre, scusate, su Zernis Magnetics e stiamo leggendo un articolo che si intitola Nessuna guerra ma guerra di classe contro il nazionalismo di Stato e la guerra interimperialista in Ucraina. Continuiamo la lettura. Solidarietà, non moralità. Tornare alle basi. Vediamo la nostra vita come un progetto da creare e mettere in pratica. Questo progetto richiede un'analisi delle condizioni locali e globali della guerra di classe, delle lotte sociali in corso e dei progetti ideati e realizzati dagli sfruttatori. Richiede la comunicazione tra i compagni anarchici, l'approfondimento della comprensione reciproca che si chiama affinità, implica lo sviluppo di un'infinita varietà di progetti specifici che inimichino le autorità ed espandano la nostra libertà. La base della nostra teoria e della pratica è che le esigenze della lotta liberatoria non siano in conflitto con quelle della solidarietà internazionale. Mentre gli stati tentano di metterci gli uni contro gli altri per gli interessi della classe capitalista, la lotta globale di classe ci unisce contro il capitalismo e contro lo Stato. I nostri obiettivi includono la razzializzazione e la gerarchizzazione delle infrastrutture statali di contenimento, repressione e sorveglianza, che favoriscono le condizioni favorevoli all'ascesa dei progetti fascisti, così come i progetti fascisti stessi. Come decine di migliaia di persone si oppongono alla guerra nelle strade della Russia, così anche quelli di noi, nei cosiddetti Stati Uniti, devono attaccarla dall'interno. Coloro che si appellano agli Stati Uniti per le no-fly zone, gli aiuti militari e le sanzioni non agiscono in solidarietà con noi. Noi non siamo solidali con loro. Con chi siamo o non siamo solidali è radicato nelle condizioni della lotta di classe globale, non nella moralità, che qui definiamo come un'invenzione della coscienza liberale, un sistema universalizzante di valori e principi di condotta individuale, che è compatibile con il capitalismo e la società di classe. Come strumento del nazionalismo di Stato, la propaganda di guerra fa appello alla moralità. Dobbiamo essere preparati a combatterla. Gli Stati presentano le guerre come una questione morale, inquadrando gli Stati in guerra in termini di buoni e di cattivi, di innocenti e di colpevoli, per raccogliere il consenso pubblico su ciò che viene fatto nell'interesse del capitale dello Stato, a spese della collettività. Non è una coincidenza che gli anarchici che supportano il nazionalismo ucraino lo inquadrino nel male minore. È significativo che essi abbiano presentato la crescente cooperazione tra lo Stato ucraino e la NATO, uno strumento dell'imperialismo statunitense, come parte di una guerra difensiva. Mentre hanno presentato la cooperazione tra i separatisti russi in alcune parti della regione ucraina del Donbass, anche nota come Repubblica del Popolo, e la Russia come aggressione imperialista. La bandiera, sono messi in rilievo sullo sfondo di una guerra tra il bene e il male. Noi vediamo la sottomissione che le persone emarginate all'interno della popolazione di uno Stato sperimentano per mano dei buoni, patrioti, sventolanti la bandiera. In Ucraina questo include, ma non è limitato, a africani, arabi, indiani, rom, persone queer e trans, alla cui marginalizzazione si è di recente aggiunto il loro nuovo status di rifugiati. Il loro ben documentato trattamento da parte del governo ucraino e di molti cittadini, non solo quelli appartenenti a gruppi neonazisti, fascisti o di estrema destra, illustra esattamente cosa nasconde l'alleanza acritica con qualunque nazionalismo europeo. È anche importante essere chiari: l'imperativo su cui le piattaforme anarchiche, così come quelle di sinistra, continuano a insistere, che noi ascoltiamo gli anarchici in Ucraina, non affronterà i problemi strutturali più di quanto ascolti gli individui emarginati negli Stati Uniti. Non è sorprendente, ma è ancora deludente, vedere gli anarchici che deridono le politiche alleate nel contesto delle lotte dei neri e di altri non bianchi negli Stati Uniti. Impiegarle però queste stesse politiche alleate nel contesto dell'Ucraina. La politica degli alleati usa rappresentanti per parlare a nome di intere razze, etnie, paesi, eccetera. Per quanto riguarda la lotta, facendo riferimento a gruppi che non hanno conflitti intragruppo significativi e disaccordi sui mezzi e i fini della lotta. Noi, negli Stati Uniti, abbiamo visto questa politica di rappresentanza facilitare il recupero da parte dello Stato di lotte potenzialmente liberatorie. Nel contesto dell'Ucraina, questo fa direttamente il gioco dei nazionalisti ucraini, oscurando la realtà della legge marziale in un paese che, tra le altre cose, ha vietato a uomini e donne trans tra i 18 e i 60 anni di partire, nel tentativo di costringere il paese a difendersi. Detto altrimenti, la politica degli alleati oscura le lotte all'interno delle lotte, lotte che, a differenza della guerra tra Ucraina e Russia, hanno un potenziale liberatorio. La lotta ai confini dell'Ucraina è una lotta che è stata messa in disparte dalla feticizzazione della militanza sotto forma di milizie sostenute dallo Stato. Mentre milioni di sfollati fuggono dal paese, la situazione apre un'opportunità strategica per attaccare i sistemi di controllo delle frontiere e le infrastrutture, costruire strutture di solidarietà, come alcuni anarchici hanno già fatto, che offrono trasporto, rifugio e assistenza ai rifugiati, così come ad altri migranti, e lottare per i principi dell'antirazzismo, antifascismo durante tutto questo processo. Le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina saranno internazionali, attraverseranno letteralmente molti confini. Ora è il momento perfetto per gli anarchici di intervenire in questi punti di controllo sociale, mentre il grosso dei militari è occupato altrove e le masse di persone in cerca di asilo si imbottigliano in questi divisori arbitrari e minacciano di farli esplodere. Contro la guerra, contro il militarismo. Lodare la democrazia ucraina sulla base del suo sistema parlamentare e della patina dei diritti civili oscura sia il fascismo latente nelle democrazie liberali come una forma di controllo sociale depoliticizzato, sia i rapporti dei politici ucraini con il movimento di estrema destra del paese. È infatti la tendenza che più beneficia della guerra con la Russia. Dato questo contesto, le piattaforme anarchiche che insistono nel sostenere il Comitato di Resistenza e o il più ampio esercito di cui il gruppo fa parte stanno collaborando con la propaganda di guerra neoliberale e ultranazionalista e sposano il militarismo. Per quanto dicono che la loro posizione sia complicata, non lo è. Per capire come alcuni possano vedere giustificabile il militarismo nella difesa della democrazia ucraina, dobbiamo affrontare la tendenza implicita o esplicita tra anarchici o sinistrorsi che siano a parteggiare con la democrazia liberale occidentale. Questa tendenza si basa sulla credenza che le condizioni del dominio della classe capitalista offerte dalla democrazia liberale siano più favorevoli alla lotta liberatoria. Comunque questo implica una visione progressivista della storia che preclude la possibilità stessa dell'anarchia. Anarchia è inseparabilità di mezzi e fini. Come hanno scritto i compagni di Ai ferri corti con l'esistente, i suoi difensori e i suoi falsi critici, liquidare la menzogna della transizione, la dittatura prima del comunismo, il potere prima della libertà, il salario prima della presa nel mucchio, la certezza del risultato prima dell'azione, le richieste di finanziamenti prima dell'espropriazione, le banche etiche prima dell'anarchia, eccetera, significa fare della rivolta stessa un modo differente di concepire i rapporti. Non c'è nessun percorso dalla democrazia alla libertà. La vera liberazione collettiva ha solo antagonismo per la democrazia liberale. Inoltre, governata com'è dagli interessi economici euroamericani e dalla potenza militare, qualsiasi difesa del progetto liberal-democratico occidentale è intrinsecamente contraria a qualsiasi forma di lotta liberatoria. E concludono questi compagni nordamericani, anarchici nordamericani, concludono il loro scritto dicendo: la nostra opposizione al coinvolgimento degli Stati Uniti in guerre straniere e all'unione delle forze con lo Stato ucraino e le milizie di estrema destra nella difesa territoriale dell'Ucraina non ci rende alleati dello Stato russo. Condanniamo l'invasione e la militarizzazione e agiamo in solidarietà con i manifestanti contro la guerra, i disertori delle forze armate e i sabotatori della coscrizione che rischiano la vita e la libertà in Russia, in Ucraina e nel mondo intero. Ma opporsi all'aggressione russa non deve equivalere al sostegno all'Ucraina. Se vogliamo mantenere un impegno verso i principi dell'antifascismo, dell'antinazionalismo, della distruzione di tutte le frontiere che dividono i presunti cittadini, meritevoli dai migranti e dai rifugiati, e degli eserciti statali che coscrivono o costringono i cittadini più poveri a combattere le guerre per conto delle classi dominanti. Gli anarchici non combattono per creare o difendere la sovranità degli stati. Combattiamo per smantellare le divisioni, sia materiali che ideologiche, che le creano. In questo spirito ci opponiamo quando, all'interno dei nostri movimenti, diventa impegnativo distinguere gli interessi della politica estera e dei produttori di armi statunitensi dai nostri. I pericoli delle tendenze reazionarie e controrivoluzionarie richiedono attenzione. Accogliamo con favore il rifiuto di principio di stare da qualsiasi parte di una guerra tra stati imperialisti, il rifiuto di sostenere l'egemonia della NATO e l'imperialismo USA e il rifiuto di un fronte popolare con i fascisti. Allora, questo era appunto un articolo intitolato Nessuna guerra, ma guerra di classe contro il nazionalismo di Stato e la guerra interimperialista in Ucraina. Era proposto appunto da un gruppo di anarchici nordamericani e l'abbiamo letto da Besmotivni, il numero 9, che è stato pubblicato il 1 maggio del 2022. prima di salutarvi per stasera, vi do anche una notizia che secondo me è particolare. Bon, abbiamo iniziato con la lettura così di Roberto Alano, ragazzo perduto, e sperduto anzi, e niente, vi do una notizia che mi ha colpito, insomma, sono stati arrestati, parliamo di marzo 2022, due anarchici a Mosca, Anton e Vladimir, e praticamente durante una manifestazione contro la guerra questi due anarchici avevano deciso di usare delle molotov per dare fuoco alle camionette vuote, quindi agli automezzi, insomma, che erano previste, predisposte per il trasporto delle persone che sarebbero state arrestate alla manifestazione. E i compagni avevano anche deciso di, dopo questa azione, evidentemente pensando al peggio, di prendere una dose letale di metadone e morire. E solo che è successo che questi Vladimir e Anton sono stati arrestati prima della loro azione, in quanto la polizia e la Guardia Nazionale russe hanno, per impedire la manifestazione che doveva svolgersi, insomma, hanno arrestato in massa chiunque fosse sulla strada e nel punto del concentramento per la manifestazione. Dopo l'arresto, la polizia appunto ha trovato le molotov ma non il metadone, quindi Anton e Vladimir, realizzando che sarebbero stati finiti in prigione, insomma, malamente, e che non avrebbero potuto fare niente per impedirlo, per evitarlo, hanno deciso di prendere questo metadone durante il loro arresto, e quindi con l'intento di suicidarsi. Ma la cosa così, già questo è sconvolgente, ma la cosa più sconvolgente è che gli agenti hanno notato che i ragazzi si sentivano male e li hanno portati all'ospedale. Quindi, dopo aver passato una settimana in terapia intensiva, questi due compagni anarchici, Anton e Vladimir, quando sono tornati coscienti, sono stati arrestati. A me viene in mente se sei in overdose dentro un carcere e ti potrebbero salvare, ti ammazzano, cioè ti lasciano morire. Se invece si accorgono che potresti essere in overdose per sfuggire, diciamo, alla prigionia, ti tengono in vita pur di arrestarti ed imprigionarti. Allora, Anton e Vladimir sono stati accusati di essere pronti al teppismo, tra virgolette teppismo, quindi è un'azione teppistica, però poi l'accusa è stata riclassificata in preparazione di un attacco terroristico, e quindi attualmente sono prigionieri a Butyrka, che è un centro di detenzione di Mosca dove sono detenuti molti prigionieri politici. Anton è cresciuto in istituti, per cui non ha una famiglia che lo supporti. E vabbè, quindi sono due persone, insomma, che si stanno vivendo un momento di grande difficoltà e che hanno compiuto questo gesto estremo. Probabilmente questo gesto estremo dà l'idea della pressione e dell'oppressione che si sta vivendo in Russia in questo momento, se si è anarchici e si è contro la guerra. Vabbè, su questa notizia così particolare, diciamo, vi saluto e alla prossima. Bene, e su questa band che stiamo ascoltando in sottofondo, questa, diciamo, grind band o anche vabbè, lasciamo così, Grind Band polacca, e Suffering Mind, da un loro split LP assieme alla band statunitense A Summer. Vi salutiamo, anche se prima ancora, anzi prima che io mi dimentichi, prima ancora abbiamo ascoltato due brani in serie dei primi anni 80, ovvero i Blitz e i Partisans, band inglesi. Avevamo ascoltato Never Surrender e Police Stories dei Partisans. Prima ancora avevamo ascoltato durante l'intervento in sottofondo una band francese, esattamente di Marsiglia, da un album loro del 2007, i 25. E ora invece siamo proprio letteralmente giunti al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e dalle ore 20 alle ore 21:30. E vi ricordo che questa trasmissione viene eseguita grazie alla Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine e Friuli e Trieste. E comunque i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, fatelo attraverso la mail liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea attraverso ovviamente una casella postale, e intestando tutto questo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre la puntata odierna, ma anche tutte quelle scorse dei giovedì passati, potete riascoltarlo tutto attraverso zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione. E ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questo ultimo brano dei Suffering Mind, band polacca, da questo album datato 2009. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Che viene condotta qui ogni